Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 4 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro e su Radio e TV. Io sono Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma con la nostra Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Aprendo sempre noi con un po' di rassegna stampa nazionale e internazionale, oggi non si può non parlare della riforma del processo penale che è diventata legge, lo leggo dal settimanale Il Post. In questi giorni scorsi il Senato ha approvato in via definitiva la riforma del processo penale, che è parte della più ampia riforma della giustizia necessaria per ottenere i finanziamenti per il Recovery Fund. Come sapete, il governo aveva posto la questione fiducia anche per compattare la maggioranza e accorciare la discussione che era andata avanti di settimana in settimana nel periodo estivo, e in particolare questo per l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Ma alla fine, scusami, le parti politiche ce l'hanno fatta poi a trovare un accordo? Sembra di sì, i partiti si sono messi d'accordo e ora hanno approvato i due articoli presentati dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Il primo articolo in questione delega al governo una serie di leggi da approvare entro un anno. Il secondo invece modifica il codice penale e il codice di procedura penale, su cui hanno votato a favore 177 senatori contro 24. Ma non è finita qui. La riforma della giustizia nel suo complesso, oltre a modificare il processo penale, prevede una riforma specifica del Consiglio Superiore della Magistratura e del processo civile. Quest'ultima riforma è già stata approvata alla Camera, sempre con la fiducia, e per l'approvazione definitiva dovrà passare quindi dal Senato. Sappiamo chiaramente che il punto più controverso della riforma in realtà riguarda i tempi della giustizia penale, ma la riforma come si comporterà in tal senso? Sì, hai ragione, in Italia esiste notoriamente un grave problema della durata dei processi e da tempo gli esperti di diritto e di sistema giudiziario insistevano sulla necessità di sveltirla per garantire il diritto costituzionale e una ragionevole durata del processo. Quindi la riforma così approvata ha modificato la legge che aveva voluto l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle nel 2018, conosciuta come Spatta Corrotti, che aveva eliminato la prescrizione dopo le sentenze di primo grado sia di condanna che di assoluzione. Con la nuova riforma cosa succede? La prescrizione, ovvero nel diritto penale l'estinzione del diritto di punire che opera prima che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna o del diritto di applicare a una persona una determinata pena, ecco, la prescrizione rimane tale. Cioè cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado, ma vengono introdotti dei limiti massimi di tempo per il processo d'appello e per quello in Cassazione, rispettivamente di 2 anni e di 1 anno per quello in Cassazione. Oltre a questi limiti scatta l'improcedibilità, cioè non si può procedere, il processo quindi dovrà fermarsi. La riforma poi ha introdotto dei limiti di tempo anche per quanto riguarda le indagini preliminari. 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per la maggior parte dei reati e 1 anno e 6 mesi per i reati più gravi. Altre cose, la riforma introduce anche dei criteri di priorità dei reati da perseguire, che saranno stabiliti dal Parlamento. Questa era una proposta fatta da Angelino Alfano quando era ministro della giustizia. Ci sarà quindi un ordine di urgenza per selezionare i provvedimenti a cui dare la precedenza in base alle specificità di quel territorio o le risorse disponibili. Poi un'altra cosa è che si cercherà di rendere più efficiente la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche, questo non è mai male. Saranno introdotte anche misure per evitare che si arrivi a processo e sarà ampliato il ricorso ai riti processuali alternativi, oltre che ampliate le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi come la semilibertà, la detenzione domiciliare, i lavori di pubblica utilità e le pene pecuniarie. Dulcis in fundo, non posso non dirlo, la riforma rafforza infine la giustizia riparativa e gli istituti di tutela della vittima del reato. Per quanto riguarda la tutela delle vittime di violenze domestiche e di genere, ne estende la portata anche alle vittime di tentato delitto. Inoltre, durante l'esame in commissione alla Camera è stato inserito un emendamento che prevede la cancellazione da internet di tutte le notizie dei procedimenti penali nei confronti di persone che sono state indagate e risultate innocenti. E questo è molto importante, è il cosiddetto diritto all'oblio, rispettato anche dai giornalisti, è uno dei codici deontologici nei confronti delle persone che sono risultate innocenti. E allora, io per tutta la settimana ho scelto per voi una playlist musicale, sono i Queen, intramontabili Queen, quindi adesso ascoltiamo, prima di ritornare con Antonella, Bohemian Rhapsody e ci vediamo tra pochissimo. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, Mama just killed a man. A gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Dopo la pausa musicale apriamo una finestra, a me piace sempre aprire finestre sul mondo con te Antonella, questa volta siamo sempre in Afghanistan. Sì, Caterina, siamo in Afghanistan perché c'è un gruppo di persone che ci sta dimostrando quanto si possa essere coraggiosi e quanto si debba lottare per la libertà non soltanto loro ma anche di tutte le donne. La sollecitazione mi è venuta in effetti anche da un articolo che ho letto sulla stampa di Linda Laura Sabbadini che ci lanciava un appello, diceva vi rendete conto che prova di coraggio stanno dando le donne afghane? Noi dobbiamo essere con le nostre sorelle e lo vediamo soprattutto in questi giorni di proteste in cui le donne afghane si mettono a rischio con i cerotti sulla bocca e le forme più disparate di una lotta sotterranea e visibile per la libertà femminile. Loro rischiano la vita per affermare la loro libertà, una parola diventata anche lì densa di significati e noi dopo tutto, anche se siamo molto lontane, dovremmo prenderci cura della nostra e della loro libertà, della nostra perché a volte la bistrattiamo, la consideriamo poco importante, o meglio non la teniamo neanche in conto, ci sembra scontata, e della loro perché invece per loro è tutta un'altra cosa, si parla ancora di schiavitù delle donne, e siamo nel 2021, e quindi insomma la situazione è veramente tragica. Infatti le donne afghane, soprattutto in quest'ultimo periodo, hanno subito diversi divieti, stanno facendo dei passi indietro rispetto alle conquiste che hanno fatto e tutto questo per una restrizione dei talebani, giusto? Sì, infatti da un giorno all'altro hanno avuto il divieto formale di studiare e crescere culturalmente e questa è una cosa veramente spaventosa. E c'è anche da dire che il 70% delle donne, soprattutto non a Kabul, Kabul è un po' più avanzata da questo punto di vista, è ancora analfabeta e far crescere la loro cultura significa far incrementare la coscienza di sé, la loro possibile autodeterminazione, riconoscerne la forza. E i Taliban sanno che le donne sono il nemico più terribile, più temibile. E poi c'è anche il divieto al lavoro, le donne non possono permettersi neanche di non avere un marito, né di essere nubili, né vedove, pena essere costrette al matrimonio forzato con i combattenti, alla schiavitù sessuale, allo scempio tragico dei loro corpi, appunto schiave nel 2021, come dicevamo prima. Ma allora prima dicevi dobbiamo in qualche modo occuparci della loro libertà, perché anche per noi è importante, e allora come possiamo aiutarle? Allora, la prima cosa, Caterina, è proprio in termini umanitari, cioè accoglienza individuale, sostegno materiale e finanziario. Seconda cosa, collettivamente, unendo le nostre voci, e proprio le nostre voci di sdegno e la nostra solidarietà, facendo pressione anche sul nostro governo perché sia parte attiva di una soluzione che difenda i diritti delle donne e i diritti umani in Afghanistan. Ed è doveroso farlo per i paesi occidentali, dopo la terribile resa dei Taliban. Infatti le donne afghane sono veramente nostre sorelle e noi dobbiamo sostenerle, perché dici, vabbè, ma dopo tutto siamo lontane. E invece no, la nostra forza darà loro più forza. Il loro coraggio immenso deve essere ripagato con la nostra solidarietà totale e permanente. E non dobbiamo pensare che non serva a chi sta lì in pericolo di vita, sapere che tante donne si commuovono, si sentono vicine, si stringono intorno a loro, si mobilitano e questo rafforza in realtà anche tutte noi, la nostra società ci insegna ad essere più solidari, a condividere, a essere generosi con chi sa peggio di noi fondamentalmente. E poi c'è un'altra cosa da dire, che ultimamente c'è stata una bella manifestazione, anzi in Italia ce ne sono state più d'una, proprio per sostenere le donne afghane. Mi riferisco per esempio a quella di Roma, a Piazza del Popolo, organizzata dall'Assemblea della Magnolia, in cui c'erano Zara, Neda e Mariam, le donne di Kabul che si sono ovviamente protette con dei nomi finti, che sfuggono alle foto e si accettano di farsi fotografare, lo fanno con la mascherina e sono delle attiviste fantastiche, combattenti per i diritti e scappate dall'Afghanistan grazie a Pangea, l'associazione che da 20 anni lavora nel loro paese per sostenere lo sviluppo sociale e civile e che all'aeroporto di Kabul le ha aiutate a scappare. Con il solito sistema, ti ricordi Caterina? Che avevamo parlato delle ragazze del football che erano scappate, beh, anche queste ragazze qua avevano una P sulla mano che significa Pangea e per questo erano riconoscibili e sono state portate in Italia e hanno parlato a Roma della loro storia. E per rimanere in